Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, bentornati al podcast di Effetto Giorno. Grazie per averlo scaricato, grazie per esservi messi in ascolto. I nostri contatti in apertura: effettogiorno@radio24.it, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Andate sul sito di Radio 24, che si è rinnovato giusto oggi, www.radio24.it. Ci sono anche nuove modalità di interazione, tanto con noi che ci occupiamo di realizzare queste trasmissioni, quanto con la stessa radio. Potrete entrare, commentare, iscrivervi, creare un vostro profilo personale con le trasmissioni che preferite e molto altro. Quindi andate www.radio24.it. Iniziamo. Un bambino veramente molto sfortunato, molto complesso. Un bambino sfortunato e complesso sono le parole del direttore del pronto soccorso del Bambin Gesù, Antonio Reale, in merito al caso di un bambino di 3 anni che è arrivato nel pronto soccorso del Bambin Gesù, è stato tenuto in osservazione, poi l'hanno fatto andare via e poi è morto. Ma questo devo dire la verità, per quello che riguarda me i tempi non dovrebbero essere particolarmente lunghi. Tempi non particolarmente lunghi, lo promette Francesco Nitto Palma, presidente della Commissione Giustizia, in merito al lavoro sull'omicidio stradale. Arriva domani, appunto, in Commissione Giustizia al Senato un disegno di legge e si promette un'analisi piuttosto rapida. Federica Mogherini, alto responsabile per la politica estera dell'Unione Europea, durante un incontro con Bernardino Leon, che è l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia, sembra che ci siano prospettive di un governo di unità nazionale a breve, quindi di una missione internazionale che potrebbe partire. Ne parleremo col sottosegretario agli esteri Domenico Rossi, che ci dice questo. L'Italia può giocare un ruolo di rilievo in un'eventuale iniziativa della comunità internazionale. Di rilievo, non siamo ancora alla definizione ruolo di guida, vedremo se questa definizione arriverà. È un altro segnale di una, come dire, esternalizzazione progressiva del nostro sistema delle imprese, che viene ad avere le leve di controllo fondamentali localizzate fuori dall'Italia e dall'Europa. Dall'Europa anche, vorrei sottolineare questo. L'avrete intuito, stiamo parlando di ChemChina, che è questo grande gruppo cinese controllato dallo Stato, che ha di fatto acquisito Pirelli. Sì. Apre un dibattito anche a livello politico proprio su questo tema, cioè sul fatto che appunto le leve di controllo di grandi aziende italiane e anche storiche come per esempio Pirelli passino all'estero e passino fuori dall'Europa. La voce appunto era di Giuseppe Berta, docente dell'Università Bocconi, una delle due opinioni che abbiamo raccolto. Dibattito ampio, se volete ne parliamo anche appunto tramite i social network e tramite il nuovo sito di Radio 24. Iniziamo però dalla cronaca, iniziamo da una vicenda terribile che arriva da Milano, da vicino Milano, da Cinisello Balsamo, dove una ragazza di 23 anni è stata per 6 mesi ostaggio di un vero e proprio aguzzino che l'aveva adescata promettendole che avrebbe fatto la modella. Roberta Pellegatta. Sì, è una storia atroce di violenze e di soprusi durata 6 mesi, come dicevi, quella scoperta dai carabinieri di Sesto San Giovanni, che hanno liberato una ragazza svedese di 23 anni che da settembre era nelle mani, sequestrata in casa, del suo aguzzino, un italiano di 42 anni che era appena uscito di galera per un reato analogo. La giovane, che era arrivata a Milano in cerca di fortuna dopo aver partecipato alla tappa svedese di Miss Universo, aveva conosciuto il suo sequestratore via Facebook. Lui, 42enne, residente a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, come già aveva fatto in passato, si era spacciato per agente di moda e aveva attirato la modella promettendole lavoro come testimonial di grandi marchi. I due si erano incontrati, lui l'aveva corteggiata, le aveva detto di volerla sposare, l'ha attirata nel suo appartamento di Cinisello, da dove poi non l'ha fatta più uscire fino all'intervento dei carabinieri allertati dai vicini di casa. E sono stati mesi da incubo per la ragazza, che ha subito soprusi di ogni genere. I carabinieri l'hanno trovata in uno stato di totale prostrazione fisica e psicologica, denutrita, spaventata, non lucida. Oltre alle botte, alle torture, alla violenza sessuale, La giovane ha subito un totale isolamento, non poteva usare il telefono, le era permesso solo di contattare sotto controllo del suo sequestratore e la famiglia via Skype in modo che non scattassero allarmi di scomparsa. L'uomo era uscito di galera nel 2013, come si diceva, per un reato analogo. Nel 2008 infatti aveva sequestrato, torturato e abusato di una giovane della Bielorussia, conosciuta sempre su internet e sempre grazie alla promessa di ingaggi nella moda. Ora l'uomo è di nuovo in carcere con l'accusa di sequestro di persona, maltrattamenti e violenza sessuale. E restiamo sulla cronaca, restiamo su questo capitolo e ritorniamo alla vicenda che vi facevamo sentire in apertura quando abbiamo fatto i titoli, ossia la vicenda di un bambino di Cisterna di Latina che si è sentito male, vomito, febbre alta, è stato portato al pronto soccorso del Bambin Gesù di Roma. E là, al pronto soccorso, è stato tenuto in osservazione per 6 ore, poi è stato lasciato andare e poi è morto. Abbiamo chiesto spiegazioni ad Antonio Reale, che è il direttore del pronto soccorso del Bambin Gesù. Sentite che cosa ci ha detto. Posso spiegare quello che è successo? Innanzitutto voglio esprimere la mia vicinanza ai genitori per la perdita del loro bambino, ovviamente. E per noi rappresenta sempre una sconfitta. Quando un bambino muore, per noi è sempre una sconfitta e quindi comunque dobbiamo avere un momento di riflessione. Il bambino in questione, che io ho avuto un modo di vedere la cartella, è un bambino che è seguito già dal nostro ospedale per una grave patologia, una grave miopatia. Miopatia sono malattie muscolari con un ritardo neuromuscolare, e la cui storia, ahimè, è di quella di tanti bambini che hanno patologie croniche gravi che purtroppo ancora la medicina non ha modo di dare una vita serena, normale. Quindi possono accadere questi incidenti. Né d'altronde è pensabile ricoverare questi bambini sempre per poter vedere man mano come evolvono nella loro storia naturale. Nel caso specifico è stato condotto per alcuni episodi di vomito, quindi un fatto intercorrente virale, ma la cartella mostra che il bambino era in ottime condizioni generali, l'idratazione era buona. Quindi è stato tenuto qui alcune ore, 6 ore per essere precisi, in osservazione, dove è stato reidratato, non ha più presentato vomiti, è stato dimesso in ottime condizioni, in buone condizioni generali, con controllo successivo dal curante o messaggio di riportarcelo in caso di peggioramento. Temo che la sua miopatia purtroppo sia stato l'elemento così scatenante, quello che poi ci dimostrerà l'esame autoptico, probabilmente una morte cardiaca, immagino. Probabilmente una morte cardiaca e probabilmente, da quel che ci dice dottor Reale, naturalmente dovremo attendere l'autopsia sul corpo del piccolo, però probabilmente dovuta alla sua patologia precedente, a questa patologia della quale ci ha parlato all'inizio. Immagino di sì, era stato studiato nei mesi scorsi, aveva fatto una biopsia muscolare, un elettroencefalogramma, una risonanza magnetica cerebrale. Proprio nei prossimi giorni era prevista un'ulteriore risonanza di controllo proprio per il suo grave ritardo neuromotorio. Quindi un bambino veramente molto sfortunato, molto complesso. Questo ci apre un po' anche, se un minuto per poterlo dire, la questa 20 secondi se riesce. Dei pazienti con patologie croniche gravi che la società fa fatica comunque a gestire sul territorio, dove appunto devono essere alla fine gestiti, perché non è pensabile per le famiglie stare ospedalizzate per degli anni quando poi l'esitus verrà comunque, perché certe patologie ancora non riusciamo a guarirla. Ed è proprio all'ospedale Bambin Gesù di Roma che sono stati portati 2 bambini che si sono sentiti male dopo aver bevuto dell'acqua in una pizzeria, in una nota pizzeria di Roma, in una nota pizzeria di Trastevere. Doveva essere una tranquilla cena come tante altre ai Marmi, una delle pizzerie più note di Trastevere. Si è invece conclusa nel pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù la serata di 2 famiglie romane, i cui figli di 7 e 8 anni sono stati ricoverati in codice giallo. I 2 bambini si sarebbero sentiti male subito dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua di rubinetto da una brocca portata dai camerieri. I genitori hanno immediatamente chiamato un'ambulanza. Nella pizzeria sono arrivate anche diverse volanti della polizia. Brocca e bicchieri sono stati sequestrati per essere analizzati. L'ipotesi dei medici è che contenessero residui di detersivi o di sostanze caustiche che hanno intossicato i 2 bambini, causandogli anche leggere ustioni alla bocca. Le loro condizioni non sarebbero comunque gravi. I titolari del ristorante rischiano invece una denuncia per avvelenamento. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Non chiudiamo ancora il capitolo della cronaca, ma lo colleghiamo alla politica. C'è stato un gravissimo incidente ieri in Brianza, un ragazzo di 15 anni è morto quando la macchina è stata presa in pieno, la macchina sulla quale viaggiava con la madre è stata presa in pieno da un'altra auto, l'auto di un uomo che poi è fuggito via. Ebbene, domani arriva in Commissione Giustizia al Senato una proposta di legge, un disegno di legge per il cosiddetto omicidio stradale. Forse da tanto, da troppo tempo che ne parliamo, ne abbiamo parlato con Francesco Nitto Palma, che è il presidente della Commissione Giustizia, per capire soprattutto se questa è la volta buona. Ma guardi, i discorsi sono diversi. Il primo, domani in Commissione Giustizia il senatore Cucca depositerà il testo unificato dei vari disegni di legge che ci sono in materia davanti alla Commissione e mi auguro domani stesso di poter aprire la fase emendativa. In secondo luogo, io ricordo quando ero ministro della giustizia, ministro dell'interno Maroni, che lanciammo l'idea di poter, come dire, prevedere un'ipotesi autonoma di reato anche per conferire al fatto una maggiore significatività di illecità rispetto all'omicidio colposo o sicte simpliciter. Ricordo che all'epoca vi fu, come dire, una forte obiezione da parte dell'attuale presidente della Commissione Giustizia, onorevole Ferranti. La previsione vi è nel nostro codice, pluriaggravata nell'articolo 589, anche con sanzioni importanti. Il problema però è questo: noi possiamo tranquillamente fare una figura autonoma di reato proprio per conferire al fatto una maggiore significatività penale, ma non credo che sia questo il vero problema. Il vero problema è l'entità delle pene che vengono irrogate e la possibilità di patteggiare la pena anche al di fuori di qualsivoglia tipo di risarcimento del danno e principalmente, dal mio punto di vista, un atteggiamento culturale dei giudici che non mi trova, come dire, d'accordo, cioè continuare ad immaginare l'omicidio colposo in sé, anche nelle ipotesi più gravi come sono quelle di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti, come un fatto non particolarmente grave. Sì. Tenete presente che... Perché su questo mi scusi, poi lei tra l'altro è un ex magistrato, insomma, quindi come dire, di queste cose da questo punto di vista la giurisprudenza è la più varia possibile e da questi microfoni l'abbiamo raccontato, cioè ci sono giudici che condannano per omicidio volontario chi si trova alla guida in stato di ebbrezza e uccide qualcuno e altri che condannano per omicidio colposo, no? Ma guardi, noi dobbiamo, io devo fare un discorso, come dire, serio, senza generare illusioni, speranze o mistificazioni della realtà. La Corte di Cassazione, in termini estremamente chiari e con un orientamento costante, ha sempre immaginato l'omicidio colposo in episodi di questo genere e mai l'omicidio volontario con dolo eventuale. Quindi qualsiasi, come dire, fuga in avanti da parte dei giudici di merito è destinata a cadere rispetto alla mannaia della Cassazione. Sì. Il problema è irrogare delle pene adeguate alla estrema gravità dei fatti e rendere evidentemente certa la pena, nel senso che persone, sì, che rasentano l'omicidio volontario debbono, a mio avviso, restare in carcere, in specie poi, sì, quando il loro atteggiamento è il frutto di comportamenti recidivanti e principalmente, ripeto, una cultura diversa. Brevemente, guardi, le chiedo solo questo, senatore, e poi chiudiamo. Quando conta, quando spera di consegnare questo testo all'Aula? Ma questo sale, questo devo dire la verità. Per quello che riguarda me, i tempi non dovrebbero essere particolarmente lunghi. Io mi auguro che il testo che verrà consegnato domani dal senatore Cucca possa trovare un grande accordo in commissione, dopodiché la fase emendativa sarà breve e poi si andrà in aula secondo quello che deciderà la conferenza dei capigruppo. E passiamo all'economia e apriamo la pagina economica con un incontro politico in realtà, che è quello tra Angela Merkel e Alexis Tsipras, che si svolgerà questo pomeriggio. L'aggiornamento è di Vittorio Darold del Sole 24 Ore. La lista degli interventi che Tsipras probabilmente presenterà è stata in qualche modo annunciata con una lettera che oggi si è stata resa pubblica, una lettera in cui Tsipras faceva presente che c'erano dei problemi di liquidità e che quindi se non fossero arrivati stati degli aiuti, come promesso, i 7,2 miliardi appunto che si attendono ancora dell'ultimo piano complessivo da 140 miliardi, l'ultima tranche, dice appunto Tsipras in questa lettera rivolta alla cancelliera, noi non ce la faremo. Intanto sembra che ci siano anche delle proposte ben precise, perché naturalmente i creditori vogliono che a fronte dei 7 miliardi ci siano delle riforme. Allora Tsipras non presenterà interventi, diciamo così, di austerità, perché su questo lui dice che c'è stato già abbastanza, ma interventi contro l'evasione fiscale e la corruzione, e poi chiede ancora una questione sui danni di guerra, cioè chiede 11 miliardi di euro per un prestito forzoso che appunto vennero i tedeschi costrinsero ai tempi del Terzo Reich, appunto la Banca Centrale di Grecia, a dare ai tedeschi, e che non sarebbero mai stati restituiti. Naturalmente non mi aspetto grandi soluzioni o grandi titoli in questa vicenda, però penso che ci saranno degli accordi che magari saranno poi la chiave di volta per risolvere la questione a livello europeo, perché poi la Merkel sarà appunto, diciamo così, il dominus che riesce poi a trovare l'equilibrio fra le diverse situazioni in campo. E l'altro avvenimento della giornata economica è sicuramente l'operazione che riguarda Pirelli. ChemChina è ufficialmente da ieri, o meglio, lo diventerà a breve, il nuovo socio maggioritario di Pirelli. Il via libera è arrivato dal consiglio di amministrazione di Camfin, con il quale, con questo accordo, si trasferirà il 26,2% di Pirelli ad una nuova compagnia, nella quale il gruppo cinese avrà il 65%, mentre il 35% sarà della russa Rosneft e di Coinv, cioè di Tronchetti Provera e degli storici alleati Unicredit e Intesa San Paolo. ChemChina, che è di proprietà dello Stato, un'OPA da 7,4 miliardi. Un'operazione che suscita anche perplessità politiche. Basta con la svendita di pezzi del Made in Italy o resterà solo la pizza? Sono parole del segretario della Lega, Matteo Salvini. Ci dobbiamo preoccupare oppure no? Valentina Furlanetto ne ha parlato con il docente della Bocconi, Giuseppe Berta, e con la vice direttrice dell'Istituto Bruno Leoni, Serena Sileoni, sempre appunto al microfono di Valentina Furlanetto. Sentiamo quali sono le due opinioni. È un altro segnale di una, come dire, esternalizzazione progressiva del nostro sistema delle imprese, che viene ad avere le leve di controllo fondamentali localizzate fuori dall'Italia e dall'Europa, dall'Europa anche, vorrei sottolineare questo. Io non vedo in questo tanto gli investimenti esteri in Italia. L'investimento estero in Italia, nella mia prospettiva, è qualche cosa che non implica un takeover, non implica un cambio di proprietà e un cambio di controllo. Non a caso si parla del 2021, poi la partita è ovviamente da giocare. Allora, è possibile essere tranquilli, diciamo così, sulle sorti più a lungo periodo, non di qui a qualche anno, ma in prospettiva? Ecco, questa è la cosa che mi rende più problematico. La produzione di Pirelli, ho visto che è già l'80% da molto tempo all'estero. Come dicevo prima, è una preoccupazione tardiva. Noi qui siamo a valutare un epilogo di una tendenza che si è manifestata negli ultimi anni. La vera fotografia della vicenda, che non è tanto un pezzo d'Italia che se ne va, quanto un pezzo, non l'unico, d'Italia che ha bisogno di quello che l'Italia non riesce ad offrire, di capitali che siano fiduciosi delle potenzialità di quell'impresa. È un bisogno fisiologico alle attività imprenditoriali, specie quelle più grandi, che hanno bisogno di molti capitali e anche di molta fiducia, e le imprese vanno dove qualcuno le vuole, dove qualcuno è disposto a scommettere su di loro. Quindi è preoccupante, secondo lei? Per chi è preoccupato del fatto che l'impresa non la bandiera che sventole sull'impresa non sia più italiana, che non è una mia preoccupazione, però per chi dovesse essere preoccupato di questo si dovrebbe chiedere come fare altrimenti. Passiamo alla politica che ci racconta soprattutto dell'incontro tra il Presidente del Consiglio Matteo Renzi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per discutere di Maurizio Lupi e soprattutto del successore di Maurizio Lupi. Un faccia a faccia questa mattina di poco più di un'ora, un momento di confronto tra il Capo dello Stato e il Premier sulla vicenda Lupi e più in generale sulla tenuta della maggioranza e sui prossimi appuntamenti della legislatura. Sul futuro del Ministero delle Infrastrutture, la linea concordata e richiesta da Renzi sarebbe quella di poter assumere per un breve tempo l'interim, per poter quindi ragionare con maggiore tranquillità su un dicastero che, alla luce dell'inchiesta di Firenze sulle grandi opere, si è dimostrato molto delicato. Resta per questo in ballo l'ipotesi che il centro di controllo sui grandi appalti venga spostato a Palazzo Chigi, depotenziando il Ministero dove comunque potrebbe andare un braccio destro del Presidente del Consiglio, il sottosegretario Delrio. Resterebbe aperta anche la strada di un mini rimpasto del Governo per permettere al nuovo centrodestra di avere un Ministero di peso, come richiesto dai centristi dopo il passo indietro di Lupi. Gli affari regionali al momento senza guida dopo le dimissioni della Lanzetta non sarebbe però sufficiente per i centristi, per questo si parlerebbe di un neo Ministero del Mezzogiorno a guida Quagliariello. Sembrerebbe chiusa invece, dopo le parole di ieri di Renzi, la polemica sui sottosegretari indagati. No alle dimissioni con avvisi di garanzia, ha ricordato il Premier. E veniamo alla Libia. Oggi l'inviato speciale dell'ONU, il mediatore delle Nazioni Unite, Bernardino Leon, ha detto che un governo di unità nazionale potrebbe essere ad un passo, potrebbe arrivare entro la fine della settimana. Quindi si apre l'ipotesi che parta una missione internazionale, una missione di pacificazione, di stabilizzazione, di controllo, nella quale anche l'Italia potrebbe giocare un ruolo importante. Se questo sia un ruolo guida, lo abbiamo chiesto a Domenico Rossi, sottosegretario alla difesa. Ascoltiamo l'intervista. Indubbiamente le parole di Leon fanno ben sperare ed è evidente che se effettivamente c'è la possibilità di formare un governo nazionale, a questo punto l'Italia può giocare un ruolo di rilievo in un'eventuale iniziativa della comunità internazionale. D'altronde questa è sempre stata la linea italiana ed è stata anche la linea condivisa durante l'incontro dell'11 marzo tra il Presidente del Consiglio Renzi e Bernardino Leon. Sotto cappello ONU comunque. Sotto cappello ONU, certamente. Certamente. E si è parlato, ne ha parlato tra l'altro anche l'ambasciatore americano in intervista oggi al quotidiano La Stampa, che l'Italia, si è detto che l'Italia potrebbe fornire 6.000 uomini. È una cifra che si sente di confermare in questo momento o no? No, io credo che anche per dare delle informazioni serie, l'entità, il tipo di sostegno, eccetera, può uscire fuori unicamente da un quadro completo che in questo momento non c'è, e anche un quadro completo non solo di chi partecipa ma anche delle finalità, evidentemente del sostegno che viene dato. Noi abbiamo sempre parlato di un processo di stabilizzazione e ricostruzione istituzionale del paese, all'interno del quale evidentemente serve un'azione di assistenza alle forze di sicurezza locali soprattutto. Ecco, proprio questo è il punto: che ruolo potrebbe svolgere la missione internazionale e che ruolo potrebbero svolgere in quest'ambito gli uomini mandati dall'Italia? Sicuramente fare una previsione in questo momento è prematuro, però ripeto, questo soprattutto perché è evidente che un'azione anche sotto egida internazionale deve prima chiarire quali sono gli scopi. Noi abbiamo, come governo, abbiamo sempre parlato di un'azione che si basava evidentemente fatto di avere un nuovo governo di unità nazionale e che fosse di stabilizzazione e ricostruzione istituzionale. Ricordiamo anche che l'Italia è stato uno dei pochi paesi, se non il solo, che aveva intrapreso ad esempio un programma di addestramento delle forze armate locali e poi evidentemente di assistenza anche nei controlli di flussi migratori attraverso la Guardia di Finanza, eccetera, che poi sono stati interrotti proprio in relazione alla nuova situazione libica. Tanto dire oggi che cosa serve e qual è l'entità, onestamente, è prematuro. L'ultima domanda che le voglio fare, sottosegretario, è questa: c'è il rischio concreto che nel momento nel quale si manda una missione di stabilizzazione in un paese nel quale c'è un gruppo estremista islamico, come dire, con una certa potenza militare, questa missione di stabilizzazione si trasformi anche in una missione di combattimento inevitabilmente? Ma noi dobbiamo dare, a mio avviso, dei messaggi che siano dei messaggi chiari, cioè qualsiasi operazione, proprio perché si basa su un governo ricostituito, è un'operazione di stabilizzazione. Però sappiamo anche, così come è avvenuto anche in altri paesi, che le regole di ingaggio prevedono evidentemente innanzitutto la sicurezza del personale che opera e poi quello della creazione di bolle di sicurezza, nel cui ambito evidentemente ricreare lo stato istituzionale e sociale del paese in cui opera. In questo senso evidentemente l'utilizzo delle armi può essere non solo un'azione volta a salvaguardare il personale stesso, ma anche a consentire questo sviluppo sociale e economico del paese. Vogliamo chiudere con un arrivo importante in un museo di Milano, un arrivo enorme, ma proprio come dimensioni. Siamo al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano e arriva una barca gigantesca che si potrà vedere nei prossimi mesi. Dario Ricci è stato là. Dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano siamo sotto Luna Rossa C72, il catamarano che a San Francisco nel 2013 è stato finalista delle regate per la selezione degli sfidanti della 34esima America's Cup e che adesso fino almeno al 2017 sarà qui sotto lo sguardo di curiosi studenti per essere studiato ed ammirato. Al nostro microfono lo skipper di questa straordinaria Luna Rossa e anche della prossima sfida di Coppa America del 2017 alle Bermuda, Max Sirena. Beh Max, una bella emozione vedere Luna Rossa da sotto, tu forse non l'hai mai vista così, eh? Sì, sicuramente una prospettiva diversa, generalmente la guardiamo dall'alto, per fortuna, perché altrimenti vorrebbe dire ci saremmo ribaltati in mare. Sicuramente per chi verrà a visitare il museo e la barca in particolare rimarrà, credo, impressionato, come lo sono stato io la prima volta che l'ho vista qui sospesa per aria, quindi direi che vale la pena venire a visitarla. Tanti studenti, tanti bambini e curiosi pronti a vedere Luna Rossa. Mi dicevi che anche tu da bambino ti sei appassionato così alla vela, no? Ma sicuramente qua, quando sono venuto io un pochino di anni fa, c'erano già delle barche, erano già vecchie all'epoca, a dir la verità. Quindi direi che per un bambino credo sarà molto emozionante vedere un oggetto del genere. E il nostro obiettivo, il mio personale, sarebbe quello di magari non creare un mostro della vela, ma se qualcuno si avvicina alla vela grazie a una visita della barca sarei già molto contento. La nuova Luna Rossa invece ha un altro obiettivo, sempre il sacro graal dei velisti, no? La Coppa America, obiettivo 2017, campo di regata scelto dagli americani di Oracle, le Bermuda, beh insomma con tutte le suggestioni del caso, potrebbe essere un triangolo, speriamo vincente stavolta. Speriamo di sfatare un po' il mito, no? Delle Bermuda, del famoso triangolo. E allora Max Sirena, skipper di questa e della prossima Luna Rossa, buon vento. Grazie, grazie. Ed è tutto per il podcast di Effetto Giorno, vi ringrazio per averlo scaricato, se non vi siete iscritti fatelo tramite il vostro browser o il vostro smartphone in maniera da avere l'aggiornamento, una piccola notifica che vi dice quando è arrivato il podcast di Effetto Giorno in maniera da poterlo scaricare. Il ringraziamento per la parte tecnica va a Valeria Bernardi, i nostri contatti effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Tra l'altro, forse ve ne sarete accorti, forse no, da oggi online il nuovo sito di Radio 24, visitatelo, diteci che cosa ne pensate e soprattutto presenta dei nuovi modi per interagire con noi, potete iscrivervi direttamente sul sito, anche tramite i social network, commentare direttamente, tutto più agile e più diretto, speriamo ovviamente che vi piaccia. Ci si sente domani alle 13 con la trasmissione e poi naturalmente con il podcast. Buona giornata da Simone Spezia.